buonanotte alle nostre vecchie sale da bar, a chi gioca ancora al NES senza avatar. Buonanotte a chi si vedeva bim bum bam, e buonanotte a Manu, Paolo e Juan. Buonanotte a tutte le pubblicità, alla Valle degli Orti e a chi non ha mai provato un rap. Buonanotte a chi fa merenda, non si renda, perché si sa, la morale è sempre quella. Buonanotte a chi preferiva Junior TV e chi si straziava con Remy. Buonanotte a chi si svegliava sempre un po' prima per accendere il ciao pedalando ogni mattina. Buonanotte, buonanotte a noi, cresciuti a notti da sognare, dire, fare, baciare. Buonanotte, buonanotte a noi, e se sei come me, buonanotte, buonanotte anche a te. Buonanotte a Virino e a Super 3, e ogni sera a tifare Tiger Man. Buonanotte ai tre nipoti del maggiordomo e alla loro poesia, e buonanotte anche a Baby Mia. Buonanotte a chi vuole ancora bere ai Micronauti e sforna tutto e alle lame rotanti. Buonanotte, buonanotte a noi, cresciuti a notti da sognare, dire, fare, baciare. Buonanotte, buonanotte a noi, e se sei come me, buonanotte, buonanotte anche a te. Buonanotte all'uomo lupo, Frankie e il conte e Dracula, e a quel bambino che è ancora dentro di me. Buonanotte, buonanotte anche a te.